vogliamo vincere tutto, fare una squadra che vinca lo scudetto ogni anno e soprattutto un nuovo stadio. L'Olimpico non gratifica affatto la passione dei romanisti, le tribune sono troppo lontane dal campo, il rumore con la distanza si perde. Ma ricorda questo straordinario entusiasmo dei tifosi della Roma, che mi ricorda solo quello che c'è nel football americano. Insomma, parla Di Benedetto sulla Gazzetta: Big Roma, subito sei colpi, cioè sei nuovi giocatori e lo stadio nuovo. Io mi fermo qui per la rassegna stampa, votate il sondaggio, gestiremo bene l'emergenza Lampedusa. Ora il giornale radio 24 mattino, l'intervista. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare per l'intervista di oggi Giuliano Giuliani, che è il padre di Carlo Giuliani, forse lo ricorderete, ragazzo ucciso negli scontri del G8 20 luglio 2001. Signor Giuliani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, anche la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha stabilito che l'Italia non è responsabile per la morte di suo figlio. Voi però non vi arrendete, volete continuare? Perché non è una parola fine questa? Non la consideriamo, non possiamo considerarla una parola fine per una ragione. La ragione che sostengono anche i 7 giudici della Corte europea che non hanno condiviso il verdetto. Quando dicono che quello che è successo, l'uccisione di Carlo, non può essere considerato un fatto isolato dal contesto, un fatto accidentale, bisogna capire bene cosa è successo prima e che cosa è successo anche dopo. Allora, bisognerebbe andare al giudizio della Corte d'Appello di Genova in un processo che si è svolto qui e che ha definito cariche violente e ingiustificate quelle che i reparti dei carabinieri praticano nel pomeriggio al corteo di Via Tolemaide. Cioè, quindi secondo lei devono essere collegate le vicende? Ma sicuramente, ma non c'è il minimo dubbio. Però i giudici che lei cita sono andati in minoranza, cioè la maggioranza sì, dei giudici. No, per carità, certo. Dico, però ci sono ben 7 giudici su 17, ecco, non è stato affatto un giudizio unanime e condiviso. L'altra questione che noi mettiamo sul tappeto, diciamo così, è che non si capisce per quale ragione il fatto indubbiamente più grave successo a Genova non sia stato considerato degno nemmeno di un processo. Allora, i processi che si sono svolti sui fatti di Genova, parlo della Diaz, sì, Bolzaneto, sì, dei fatti di strada, eccetera, hanno prodotto pezzi di verità importanti rispetto alle sciocchezze che ancora oggi esponenti del centrodestra continuano a ripetere, questa del centrodestra e non solo. Ecco, e allora perché sul fatto più grave non c'è stato un processo? Ma c'è stato un procedimento che è stato archiviato nel 2003. Non è un procedimento. No, appunto, è stato archiviato. Certo. È stata aperta un'indagine e un GIP archiviato per legittima difesa. Esatto, quindi una cosa che è tutto una stanza, non in un'aula di tribunale dove c'è un dibattimento, dove si portano le testimonianze. Però mi scusi Giuliani, cioè il sistema giudiziario è questo, voglio dire, un giudice per indagini preliminari ha deciso, voglio dire, di archiviare, capito. Cioè quindi è di non andare orrenda, la considero una cosa orrenda e va bene, questo. E ripeto, non hanno potuto concederci neppure un dibattimento. A cosa serve un processo? Ripeto, non era una cosa fatta con tutta la possibilità di portare le prove, le... ma sì, insomma, ricordiamo. Pronto? Sì, certo. Siamo qua. Vogliamo ricordare una delle cose più scandalose? 4 individui, dico io, abusivamente considerati consulenti, inventano lo sparo per aria che colpisce il Sasso, che è un imbroglio dei più osceni che si possano fare, perché ci sono le immagini che mostrano il colpo diretto, e sulla base quindi di un colpo sparato per aria dicono che c'è la legittima difesa. Tengo a precisare questo fatto perché sempre quei 7 giudici europei dicono che se avesse davvero sparato per aria avrebbe allontanato i manifestanti che erano intorno alla Jeep. Non ha sparato, però ha sparato in maniera diretta. Però questo, diciamo, adesso poi la ricostruzione non è tempo e luogo per farlo. No, senta, voi avete chiesto, volete fare una causa civile, contro chi, contro che cosa? Beh, la causa civile, ci dicono gli avvocati, dobbiamo farla contro le persone che sono indicate come coloro che hanno prodotto l'uccisione di Carlo. Cioè Mario Placanica? Ma io l'ho ripetuto già 200 volte, questa è la 201esima. È l'unico strumento giudiziario che ci rimane in mano, non vuole assolutamente essere nessun tentativo di risarcimento nei confronti del carabiniere, ammesso sempre che davvero sia stato lui a sparare, perché siccome le versioni date dallo stesso sono cambiate innumerevoli volte, c'è pure dubbio, non ho sparato io, ho sparato quell'altro, l'ufficiale, eccetera eccetera, ci sarebbe anche questo da chiarire. Senta, ma lei l'ha mai più sentito, l'avete mai più contattato? No, mai più contattato. Le chiedo anche questo, ma lei, sua moglie, non avete mai, lo so che è una domanda molto dura, in cuor vostro rimproverato idealmente vostro figlio, che non c'è più, di essere lì in quel momento con quell'estintore in mano? Ma guardate, anche questa storia dell'estintore in mano, o comunque di essere lì, è di essere una lì. Cosa penosa. Carlo arriva per ultimo dalle parti di quella Jeep. Cerchiamo di guardare le immagini che ci sono, perché sennò veramente c'è da indignarsi. Diciamo allora di essere lì col passamontagna. Arriva per ultimo insieme a un'altra decina di manifestanti che sono stati ingiustamente aggrediti, e un estintore per terra viene raccolto da un manifestante tirato verso la Jeep. Viene respinto da una pedata, rotola. Carlo ha visto la pistola puntata, ha sentito le minacce, ha visto caricata, e lo solleva da terra e cerca di disarmare. Questo sì, però allora minacce. Al di là della dinamica, il fatto di essere lì, poteva essere lì come poteva essere a 10 km di distanza, sì, voglio dire. Certo, no? Ma ti chiedo scusa, ma capisce che se un va con l'estintore, c'è qualche imbecille in questo paese che pensa che Carlo si sia portato l'estintore da casa. No, questo no, però però ecco, torniamo alla domanda originaria. Lei questa domanda se l'è mai posta dentro una sorta di rimprovero a suo figlio, a dire io perché... lo rimprovero di essere stato presuntuoso, cioè di pensare davvero di poter disarmare da quella parte. Gli rimprovero di aver avuto fiducia di chi stava dall'altra parte. Questo è il rimprovero maggiore che gli faccio. Questo è il rimprovero. Io voi avete già detto non chiedete comunque soldi per questa causa civile, cosa volete? Che venga scritto. Vogliamo un processo. Un processo. Vogliamo che queste cose che ho detto anche adesso, un po' eccitato, perché lei capisce bene, non è posto davvero più, insomma. Sì. Credo di essere giustificato almeno per questo, vengano portate finalmente in un'aula di tribunale e la si smetta di raccontare storie, menzogne e falsità su quella vicenda, che si stia ai fatti. E allora, sulla base dei fatti, ci siano delle cose, delle sentenze, delle decisioni che attribuiscano i criteri di responsabilità. Allora, altra cosa, ammesso che a sparare sia stato il giovane carabiniere, nel mio modo di concepire le cose, la responsabilità la vado a cercare molto più in alto, la vado a cercare in chi era a Genova a dirigere le operazioni dal punto di vista politico, in questo caso l'onorevole Fini, a chi, ai generali, ai comandanti, agli ufficiali che erano in piazza. C'era un gruppo di elite, gli ufficiali che erano in piazza Limonda sono un gruppo di elite che erano in Somalia, a Mogadiscio, quando è stata fatta. Ma questa è tutta la questione dell'ordine pubblico, sulla quale anche la Corte di Strasburgo si è pronunciata, però dicendo non è colpa, cioè non è stata gestita male, non ci sono responsabilità per la gestione, cioè ci dobbiamo attenere alle pronunce, insomma. Poi lei, carità, giustamente ha le sono sue. La pronuncia lì, io voglio un processo in Italia con una corte in Italia che stabilisca i fatti. Va bene. Io intanto la ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata. Ringrazio lei. Grazie. Giuliano Giuliani è il padre di Carlo Giuliani, ucciso il 20 luglio 2001, il G8 di Genova. A tutti quelli che ci dicono vergogna per dare voce, che grande vergogna, abbiamo dato voce a Giuliano Giuliani, è una vergogna, non si capisce perché. mi sto vergognando, cari ascoltatori. Intanto do la pubblicità e poi parliamo di che cosa? Beh, di Lampedusa. La situazione a Lampedusa è una situazione difficile, drammatica. Anche nelle ultime 24 ore sono arrivate circa 2.000 immigrati. Quello che vi chiediamo nel nostro sondaggio è: l'Italia, secondo voi, sarà in grado di gestire l'emergenza? Votate il sondaggio e ne parliamo tra poco, se volete, 800 24 00 24. 24 mattino, 8:34, eccoci qua. Parliamo allora di quello che sta succedendo a Lampedusa, i riflessi di quello che succede al di là delle sponde del Mediterraneo. Con 1933 sono i migranti arrivati solo nelle ultime 24 ore. La situazione è questa. Secondo voi, vi chiediamo nel sondaggio di oggi, l'Italia sarà in grado di gestire questa emergenza? Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E prevale per il momento uno scetticismo, 72% dice di no. Anzi, 73% dei nostri ascoltatori, forse anche frutto delle immagini di un po' di confusione che si sono viste in TV e anche qualche dichiarazione, un po' ognuno va per la propria. Oggi il ministro dell'Interno Maroni, in un'intervista al Corriere della Sera, dice: sono deluso da chi al tavolo delle regioni, delle province, dei comuni ha detto una cosa e poi subito a smarcarsi le tendopoli di là. Fatele in Valpadana, teniamole qua. Qualcuno che dice non vogliamo perché abbiamo il Papa e abbiamo il giubileo di Papa Wojtyła a Roma, no. Da qualche altra parte no, perché non si capisce bene perché. Insomma, qualcuno che poi, dopo aver detto va bene, facciamo la nostra parte, ora pare smarcarsi. Voglio salutare il sindaco di Treviso Giampaolo Gobbo, anche segretario della Lega in Veneto. Buongiorno Gobbo, ben ritrovato. Sì, buongiorno a voi. Saluto e a tutti gli ascoltatori. Anche l'onorevole del Partito Democratico Jean-Leonard Touadi. Buongiorno Touadi. Buongiorno. Così come voglio salutare il sindaco di Caltagirone Catania, vicino a quel villaggio di Mineo, Francesco Pignataro. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Lei ha protestato ieri, perché? Cosa c'è da protestare? Noi abbiamo protestato, non come dice il ministro Maroni che ci tiriamo indietro, si è tirato indietro il ministro Maroni, che si era impegnato a non far arrivare in questo villaggio cosiddetto dalla solidarietà direttamente i migranti da Lampedusa e quindi accogliere solo i rifugiati provenienti da altri centri. E in realtà è successo il caos, queste persone sono arrivate, vi sono stati dei contrasti all'interno dello stesso villaggio perché gli ultimi arrivati erano un po' più aggressivi e il risultato è stato, nel giro di 48 ore, che centinaia e centinaia di persone si sono perse per le campagne, per le strade, chi ha, cioè, sono andati via. Un po' come a Manduria, in provincia di Taranto, sì, dove sono, esatto, arrivati e già alcuni, un 200, sono fuggiti. Esatto. Tenga conto che noi non abbiamo detto nel nostro territorio non ci devono stare, anzi, noi non li volevamo segregati in un villaggio, li volevamo dentro le nostre città. Avevamo proposto al ministro di accogliere 500 persone, tenga conto che siamo 15 comuni, e quindi addirittura al contrario, noi volevamo fare la nostra parte e chiediamo che questa parte la facciano tutti. Senta, che ne pensa del presidente della regione Lombardo, presidente della regione Sicilia, il governatore della Sicilia, che vabbè, ieri ha smussato un po', poi vedremo la questione della tendopoli in Valpadana, ma un paio di giorni fa ha ribadito per la seconda volta dicendo: ecco, io ho un casolare da quelle parti, non so, una proprietà in provincia di Catania, mi hanno dormito dentro, lo sapevo che ci voleva il mitra per gestire questa situazione. Un uomo delle istituzioni che usa questo linguaggio si commenta da solo, ma se lei vede la rassegna stampa, le posizioni del presidente della regione siciliana nel giro di 20 giorni cambiavano di settimana in settimana come i titoli in borsa, è passato dall'assoluta contrarietà alla richiesta di risarcimento con accise e cose varie e di nuovo alla contrarietà e infine ad una contrarietà armata. Quindi lascio agli ospiti il commento di queste posizioni. Allora, come detto, abbiamo salutato Giampaolo Gobbo e Gianluca Touadi. Aprendo un respiro internazionale e nazionale, vorrei chiedere intanto: Gobbo, è una polemica di basso profilo quella di Lombardo, mandiamo le tendopoli anche in Valpadana, oppure c'è un problema, come dice Maroni, di chi ha detto sì, aiutiamo, e poi adesso tutti che si smarcano, pare, o molti che si smarcano. In Veneto che succede? Li prendete? Siete disposti? Sì, beh, io credo comunque che il problema è evidente che esiste, ma è un problema che dobbiamo anche capirci. O esiste ancora uno Stato-nazione che ha dei poteri e quantomeno ha delle possibilità anche di respingere certe cose, come del resto lo fa già Malta, quindi che noi si sia più vicino a un altro discorso, ma se Malta respinge, che lo stesso è in Europa, non capisco perché l'Italia debba accettare, quando addirittura la Francia stessa respinge, quando respinge la Grecia e quando respinge la Spagna. Allora, il concetto fondamentale è che credo che qui sia un discorso molto, molto profondo. Capisco che qualcuno dice stanno crollando i muri, eccetera, ma allora cerchiamo di capirci, i muri crollano solo da una parte ovviamente, e quindi l'Occidente, che è la fonte ovviamente dei diritti umani, sì, e quindi del sistema, diciamo, totale di accoglienza, ma se dobbiamo solo gestirli tutti in questo nostro Stato italiano, oppure se dobbiamo invece dire basta. Abbiamo visto che l'Europa, la Francia in primis, quando c'era da intervenire ovviamente in Iraq, si è ben tenuta distante, perché ha già le concessioni petrolifere con la ERC, mentre quando c'è stato da andare in Libia, ma basta, che vuol dire assurda, mai vista, che uno Stato parta contro un altro Stato al di là di questioni umanitarie o meno, ma che vada a bombardare da sola. Ma basta. Questo, che vuol dire, Gobbo, se arrivano qui che facciamo? Cioè, ne sono arrivate anche quasi 2000 nelle ultime 24 ore. Riportarli a casa loro. Riportarli a casa. Senza soldi, fondamentale. Prego? Senza quei 1500 euro a testa. Ma assolutamente. Lei sa quanto costa un immigrato di quel tipo quando sbarca? Solo al momento dello sbarco. Quanto? Non per i vari trasferimenti. 180 euro al giorno. Mm. E io ho pensionati che vivono con 400 euro al mese, quindi capiamoci bene, sappiamo molto bene che è una situazione oggi in Italia dove addirittura il Papa, parlando a Terni, dice chiaramente: la disoccupazione mina la stabilità sociale. Mai come in questo momento dalle nostre parti c'è una situazione così triste, così tragica di mancanza di lavoro. Allora, io, onorevole Toadi, che ne pensa di questo pragmatismo, insomma, anche di conti fatti da Gobbo? E poi le chiedo, il Partito Democratico, con alcuni esponenti autorevoli, dice: sembra quasi una situazione creata apposta, questa confusione, apposta per che cosa? Sì, ma intanto vorrei dire al sindaco Gobbo che questa storia della Lega di lotta e di governo comincia un po' a stufare. Queste domande che stava facendo poc'anzi li dovrebbe rivolgere al suo governo, li dovrebbe rivolgere al suo ministro. Sono loro che stanno gestendo questa situazione e devono rispondere loro, ai lampedusani, all'Italia tutta, perché siamo in questa situazione. Non possiamo sempre dare la colpa chissà a chi. Cioè, ci è stato detto: portiamo una barca in Tunisia così li fermiamo lì gli aiuti. Ci è stato detto che abbiamo firmato un accordo con la Tunisia e le barche non partiranno più dalle coste tunisine. Allora, a chi dobbiamo credere? Cioè, quello che ci vuole, secondo me, è una responsabilità. Quello che noi diciamo è che la Lega è prigioniera della sua propaganda. Ha detto agli italiani: abbiamo fermato l'invasione. Noi abbiamo detto che non è possibile che i flussi si fermino, non è possibile che in situazioni come queste l'Italia non sia investita dal flusso migratorio. Un paese serio programma quelle situazioni. Il nostro paese ha già accolto dal Kosovo, dall'Albania, con una grande solidarietà, con una grande rete tra governo, istituzioni locali e volontariato. Questa volta abbiamo preferito invece alzare il simbolo dell'invasione e dell'assedio che si sta ritorcendo, ma cioè, contro perché? Il governo e contro il ministro Maroni. Cioè, lei dice anche lei, voglio dire, che è quasi una situazione caotica creata per poi fare propaganda? Perché non credo che sia stata creata, ma che il problema poteva essere risolto in un altro modo sta sotto gli occhi di tutti. Non posso pensare che sia credibile lasciare 5.000 persone che provengono da questi paesi accanto a 5.000 residenti italiani di Lampedusa. Questo lo capiscono anche i bambini, che non poteva essere gestito in questo modo qua. Pensate se fosse stato in Valseriana una situazione di questo tipo, se il ministro Maroni, se la Lega potevano accettare che i cittadini subissero una situazione di assedio di questo tipo. Quindi di che cosa stiamo parlando? Gobbo se la deve prendere col suo governo. Sì, questo un po' è vero. Gobbo, lei dice no i soldi, però sono proposte fatte da alcuni ministri, cioè, ma, voglio dire, ma io posso capire tutto. Allora, questa non è una questione, perché io vorrei sapere allora le proposte del Partito Democratico a questo punto, no? Perché è evidente che quando capitano queste cose è ovvio che sono situazioni ingestibili. E credo certamente che il mio ministro, ma assolutamente, è al governo, e ho tre ministri al governo, quindi di questo me ne faccio totalmente carico. Però io credo che bisogna anche verificare le situazioni dove c'è già una presenza massiccia. Io ho una integrazione oggi del 18-20% in città capoluogo. Se parliamo di altre realtà si arriva addirittura al 50%, sì. Che purtroppo di questi numeri, attenzione, poi ci sono ovviamente gli irregolari, cioè i clandestini, vabbè, che vanno e vengono, oppure sono anche residenti, ma purtroppo l'80% di questi numeri oggi viene a bussare ai comuni, perché ai servizi sociali dei comuni, perché sono quelli che se avevano il lavoro l'hanno perso. Situazioni di emergenza già precedente a questa situazione. Ecco perché non ci si può più accaparrare, diciamo, ancora questi che sono assolutamente giovani, sono pimpanti giovani, certo che capisco, hanno anche loro detto veniamo per cercare però lavoro, non c'è posto per tutti, facciamo e capiamo che questa ovviamente è veramente un'invasione, e diamo loro le chiavi di questo stato, che forse magari in qualche situazione si potrebbe andare anche meglio, ma questo credo non sia assolutamente possibile. Vorrei capire quale situazione, ma dopo le informazioni sul traffico. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, Italia in grado, secondo voi, di gestire queste emergenze immigrati? Votate il sondaggio, per il momento, come detto, il 73% dice di no. Voglio sentire Luca da Lecco, che ci ha chiamato all'800240024. Luca. Buongiorno. Allora, volevo dire, prima di tutto, che l'Italia e nemmeno l'Europa è pronta ad accogliere questa invasione di massa, perché non abbiamo le strutture, non ci siamo neanche adeguati a programmare la ristrutturazione di una tale struttura per far fronte a questa invasione. Inoltre, voglio dire ai bravi politici che ci sono a Roma di stare attenti, che il governo non ci venga a dire poi di ospitare questa gente in casa nostra, perché questo è compito delle strutture dei politici, organizzare le strutture a che vuol porta. Dire in casa nostra, cioè si teme che le dormano nel soggiorno, no Luca? Stiamo attenti a quello che si fa, perché ormai la situazione è diventata ingestibile, fuori controllo, ormai è troppo tardi intervenire. Insomma, ci vuole il mitra, come dice Lombardo. Lei dice, ci vuole il mitra, perché questi poveri cristi, anche loro hanno bisogno di avere un posto dove vivere. Va bene, gli diamo un posto dove vivere anche a loro. Meno male, Luca. Vorrei per un attimo tornare dal sindaco di Caltagirone e poi da Gianleonardo Alì. Sindaco, la situazione è davvero, leggevo di tensione con la popolazione, di arance rubate negli aranceti, di cui siete famosi nella zona. Insomma, che è una cosa che all'inizio può far sorridere, ma in realtà è una cosa molto più seria di quanto possa sembrare, no? Sindaco Pignatà. Sì, è chiaro che le tensioni sociali, quando si incontrano diversi autorità evidentemente creano cortocircuiti, ma il paradosso del nostro paese, che come sempre non solo con questo governo ma in realtà insomma anche con altri governi, è che sempre un po' l'improvvisazione è regnata sovrana. Pensi che noi nei prossimi 10 anni, lo dice il ministro Tremonti, quindi non lo dice un comunista di quelli che del nostro tempo, lo dice un ministro della Repubblica, avremo bisogno nei prossimi 10 anni di 2 milioni di immigrati, perché il tasso di crescita del nostro paese, il nostro sistema Italia avrà bisogno di 2 milioni di immigrati. Ora è impensabile, non è mai storicamente accaduto che qualsiasi barriera, qualsiasi frontiera potesse fermare i fenomeni migratori, quindi bisogna in qualche modo attrezzarsi per affrontarli. Il Mediterraneo è un mare del nostro paese, un mare che ha avuto nel passato un valore strategico, fondamentale, simbolico, di circolazione di uomini, di idee, di merci. Perché non trasformare una situazione negativa in una situazione positiva? Ma questo... Abbiamo avuto l'impressione che il ministro Maroni, dov'è che ha sbagliato? Nel senso che tutto quello che era successo a Lampedusa, nessun governo l'ha mai fatto succedere. Perché queste navi cosiddette da crociera hanno impiegato tanto tempo per arrivare lì? Era come se si volesse aspettare in attesa di... Ora anche la situazione di Mineo, del cosiddetto residence degli aranci, che è stato battezzato da Berlusconi residence della solidarietà, è una grande struttura creata da una grande azienda italiana, la Pizzarotti, che nel mese che in questo marzo finiva il contratto con la base NATO di Sigonella, il villaggio sarebbe rimasto vuoto e non c'era nessuna alternativa, nessun modello diciamo di sviluppo per questa struttura. Improvvisamente si è scoperto il villaggio della solidarietà. Vabbè, cioè dice che è stato costruito volutamente per una commessa già data. Mi pare abbastanza evidente, perché quando noi abbiamo proposto, rispetto al collega di Treviso, perché le situazioni sono diverse, ma io credo che questo problema lo dobbiamo affrontare da Treviso a Caltagirone, proprio perché è il modello di integrazione che è sbagliato. Però infatti c'è un qualche problema, però di fondo ci scordiamo che c'è una tra virgolette invasione. Su questo Gianni Nartuadì, onorevole, le voglio chiedere, perché Gobbo dice sentiamo le proposte del PD, cioè arrivano dalla Tunisia molti anche di quelli che Zaia ha definito con gli abiti griffati, con le scarpe buone, che certo non fuggono da una guerra, perché poi bisogna distinguere, ci sono degli eritrei, una coppia di eritrei che fuggiva dalla Libia e ha partorito un bambino in mare, ma ci sono anche quelli che arrivano da situazioni approfittandone insomma per cercare di arrivare. Qual è la proposta del Partito Democratico? Che fare di tutti questi che arrivano? Ma intanto penso che ci sono due o tre cose che vanno fatte velocemente. La prima cosa, il viaggio dei ministri a Tunisi, penso che sia stata una buona mossa, perché il governo di Ben Ali è caduto, ma gli accordi si fanno con gli stati e quindi trattare di nuovo con la Tunisia delle forme di riammissione in alcune condizioni che vanno negoziate è stata sicuramente una buona idea. La notizia del ministro Maroni di una predisposizione di 50.000 posti in accordo con le regioni per accogliere queste persone mi sembra una buona mossa. E quindi queste, dopodiché, però... non si può dire siamo pronti ad accogliere 50.000 e non riusciamo ad accoglierne 5.000. Questo Maroni ce lo dovrebbe spiegare. Terza cosa, è utile l'idea di fare in modo che l'Europa prenda le sue responsabilità, perché siamo diventati frontiera europeo. Non ho visto un esponente di spicco della Commissione a Lampedusa, ho visto solo Marine Le Pen scortato da Borghezio, cioè non è proprio una politica europea. È questa, manca la politica europea. Sentiamo Paolo da Palermo, buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti. Dica. Insomma, una piccola riflessione. Sì. Allora, è stato detto 1.500 euro al tunisino che vuole ritornare, ma intanto il tunisino per venire qui ha pagato 4.000, 5.000 euro per mettersi su un barcone per venire qui cercando di venire a suo paraio, come dire, sperando di trovare del dorato. Dico, ora al di là della politicizzazione di ogni cosa che si dibatte sempre chi ha torto, chi ha ragione, cosa fare, intanto la cosa sarebbe quella di intervenire. Perché se si incavola il popolo siciliano e diventa come il popolo tunisino e si va a sfasciare tutto a Roma, poi cosa pensano? Che ma però intervenire che vuol dire, Paolo? Cioè intervenire concretamente, respingerli, imbarcare? No, per carità. Come? Intanto prenderne 2-3 mila Cina e portarli a Parigi, perché intanto non si creerebbe nemmeno il problema. Ho di capito. Lingua, in quanto alcuni si parlano tutti francese. Ma Paolo, ma capisce che non è fattibile questa proposta? Atterriamo in aereo con un aereo a Parigi. Che facciamo? Una cosa è fattibile? È fattibile che Lampedusa non lavora più? No, nessuno. No, ragazzi, però dobbiamo metterci per strada e andare a lavorare e vedere quello che c'è in giro. Ho capito, Paolo, ma lei deve proporre una cosa fattibile, cioè mandarli a Parigi. Ma lo sa che a Ventimiglia quelli che sono riusciti a fuggire sono lì a Ventimiglia al confine a cercare Parigi? Dice: che cosa, volete attraversare il confine? Ma vi prendiamo a calci, insomma, per usare un eufemismo. Non è che si possono prendere e spedire come pacchi postali. Sindaco Gobbo, io ho 10 secondi. Cos'era la questione? Su cos'è che pensava che andrebbe meglio se ci fosse, no, quando ha detto magari venissero tutti un'invasione andrebbero meglio alcune cose, che cosa? No, perché capisco, vede, se facciamo come fa la Tunisia, perché cerchiamo di chiarirci, queste cose sono organizzate, non nascono da sé, tutte queste persone, non tutte, giovani, non tutte, 20, non tutte, anzi anche, ma sono pochissimi quei casi, quei due parti che ci sono stati, due bambini eccetera, ma io ne ho già qua, guardi, ne ho già qua 8 a Montebelluna, no? Le leggo il giornale di oggi intanto. Allora, la cosa più sconvolgente che hanno scoperto gli investigatori eccetera, che un tunisino 16enne che spacciava in strada, il ragazzo è sbarcato a Lampedusa l'8 febbraio, al suo arrivo ha chiesto asilo politico, eccetera eccetera, aveva vabbè sindaco, però non mi tiri fuori una storia o due storie per dire che sono 8 storie, 8 di questo storie. Tipo, allora, al di là ovviamente delle storie singole, ma purtroppo stiamo subendo anche una situazione che sta sconvolgendo non solo, come dice il Papa, la stabilità sociale con la disoccupazione, ma anche quasi un sistema dove qui anche con lo spaccio di droga, per carità, poi ci sono quelli che l'assumono, infatti quelli che lo riforniscono, però sindaco, minimo, no, io devo chiudere, ma su cos'è che andrebbe meglio se ci fosse una, era una battuta che ha fatto, non si riferiva quella battuta di prima, ma certamente, perché sono molto più pratici, credo. Avete visto i francesi cosa fanno? I francesi sono in Europa, vendono prima gli aerei alla Libia, poi vanno a distruggerli, così fanno praticamente una situazione. Senta, io sono abbastanza anziano e mi ricordo che il governo del Chad, i francesi, con la legione straniera, l'ha cambiato nel giro di 24 ore, vabbè, senza pensare o chiedere va nulla, bene. Né all'ONU, no, né ma alla non NATO. Mi porti in Chad, che già abbiamo abbastanza problemi con la Libia. Grazie all'onorevole Gianluca Artuadi del Partito Democratico, Giampaolo Gobbo della Lega, sindaco di Treviso, e il sindaco di Caltagirone Catania, Francesco Pignataro. Con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Bescapè in regia, diamo la linea a Oscar Giannino. Seguiteci su Facebook e noi siamo qua anche domattina alle 7:20.